Ciao Bruno, tu ci senti? Sì, ti sento, ti Sì. sento. Ok, allora scusa per i problemi di voce. Purtroppo c'è un po' di mal di gola e Si sente. andare allo stadio il giorno prima non è l'ideale, prima di fare una diretta radio. E niente, allora, come dicevamo, ora ci facciamo una chiacchierata con te riguardo il libro Il nemico non ha pietà. E niente, tu hai anche questo secondo libro che scrivi, è sempre edito per Eris Edizioni, dimmi se sbaglio. E quindi niente, ti volevamo chiedere un po' come è venuta fuori l'idea del libro e se ci vuoi dire due parole a riguardo. Sì, allora un saluto a tutti e tutti, coloro che sono in ascolto. Ti ringrazio anche di questa intervista, di questa chiamata. Dunque, allora, il libro nasce durante i miei domiciliari, quando sono stato arrestato per accusato di essere colui che ha lanciato il razzo durante un presidio fuori del carcere Vallette. Questo razzo è finito su una tettoia di una struttura. In una tensa struttura che ospitava il laboratorio di cucina di pasticceria del carcere delle Vallette. Ha preso fuoco tutto. Dopo qualche mese, da questo fatto, appunto, sono stato arrestato e ho fatto 1 anno e 2 mesi circa di domiciliari. Chiaramente, quando sei chiuso in casa, alla fine devi fare qualcosa che ti dia un senso un po' al tempo che passa, no? Appunto, una delle mie cose, cioè delle cose che mi abituale è scrivere o disegnare, oltre magari fare un po' di allenamento e tutto quanto. E quindi, boh, ho iniziato a scrivere, a buttare giù delle cose così senza nemmeno sapere dove sarebbe andato a parare. Chiaramente sono partito dallo sgombro dell'asilo perché, appunto, nel febbraio di 3 anni fa, quasi, no, giustamente di 3 anni fa. All'inizio di febbraio, il 7 febbraio, mi sembra, è stato sgomberato l'asilo, che ha provocato tutta una serie di cortei, manifestazioni, iniziative e quant'altro. L'asilo era un posto molto importante per la città, ma anche per me, soprattutto perché l'ho visto nascere, lo frequentavo, l'ho frequentato per degli anni ed era un punto di riferimento per il movimento anarchico torinese. E niente, appunto, nel libro racconto quei giorni lì, i giorni dello sgombero e poi subito dopo. Ma poi il libro prende una forma un po' tutta sua, c'è cioè una vita tutta sua, e la storia proprio smette di essere una storia più nostra, diventa una storia più da romanzo, no? Una caratteristica di questo romanzo è che penso che traspaia molto per chi l'abbia letto. È che io ero molto incazzato in quel periodo, c'era una rabbia, una frustrazione per vari motivi, no? Per il fatto che appunto ero domiciliari, avevano sgomberato l'asilo, assistevo impotente a tutto ciò che accadeva. E difatti, appunto, la prima parte del libro parla di queste cose qua, no? Che ne so, racconto un po' dello sciopero della fame delle compagne rinchiuse all'Aquila, oppure vabbè, tutto quello che accadeva in quei mesi lì, che mi vedeva uno spettatore impotente, attraverso radio, TV o internet, ricevevo tutte le notizie del mondo e non avevo niente, cioè non potevo fare niente, era molto frustrante questa cosa qua. A parte che, vabbè, il senso di frustrazione può darsi che ce l'abbiano un po' tutti quanti quando, che ne so, mi riferisco anche in quegli anni, in quell'estate lì, non so se vi ricordate, c'erano stati un sacco di incendi in Amazzonia, in Congo e nella steppa siberiana. Questo per dire, anche questo viene citato, no? Ovviamente. Questo romanzo appunto nasce da questa mia esigenza di dover fare qualcosa, di dare un senso un po' al tempo che passa e non avere la sensazione che mentre sei rinchiuso butti via il tuo tempo. Quindi creare qualcosa di concreto. Sì, Questo. una cosa volevo chiederti, ma tu eri domiciliari per il razzo e in un presidio al carcere appunto in seguito allo sgombero dell'asilo, giusto? Sì, Ok. era la domenica, dunque c'era stato lo sgombero il Il martedì, 7. Il 7, poi il giovedì sono stati dei, cioè, il sabato c'è stato un grosso corteo dove avevano anche arrestato degli altri compagni, oltre a quelli dell'asilo che avevano arrestato. E sabato sera avevano arrestato altre 11 persone, per cui in quel momento lì c'erano 17 compagni e compagne dentro il carcere delle Vallette. Per cui anche appunto l'accusa che mi venne mossa al tempo era assurda, perché l'accusa era quella di incendio doloso, come dire. Loro dicono che sono stato io, comunque chiunque abbia tirato quel razzo di certo non voleva dare fuoco al carcere con 1500 persone dentro, tanto più che Certo. di quelle 1500 persone c'erano 17 nostri compagni e compagne. Sì, io quel periodo anche ero in carcere, devo dire che altri carcerati, nonostante ero in isolamento, avevano comunque apprezzato quel gesto, quel momento, anche se qualcuno diceva, boh, però lì ci lavorano, magari la prossima volta se dovesse accadere qualcosa sarebbe meglio accadesse dove si appoggiano i secondini. Questo era quello che mi dicevano dentro. Sì, E sì, erano vai, vai. critiche che sono ben girate anche nel carcere delle Vallette, se non che poi alla fine è stato anche un bene per i detenuti delle Vallette, perché c'era già pronto un laboratorio molto più attrezzato, molto più bello, molto più figo, che però non veniva aperto perché c'era quello, sai come la burocrazia carceraria. E questo ha fatto sì che invece poi abbiano utilizzato quello migliore di laboratorio. Anche se comunque non è che si può comandare un razzo di segnale, cioè non è che chi ha lanciato quel razzo avesse un'arma di precisione col GPS, è un razzo di segnalazione nautica che va in cielo e non si sa dove cade. Per cui sì, erano critiche giuste, fondate, ma credo inattuabili. Certo. E senti, come dicevamo, questo è il tuo secondo libro, Il nemico non ha pietà. Il Sì. primo è sempre edito per Eris Edizioni e Io non sono come voi. In realtà ne avevamo parlato anche l'anno scorso durante le dirette del giovedì con te. Avevamo provato a presentare il libro e ci eravamo anche fatti una chiacchierata perché appunto ti era stata chiesta la sorveglianza speciale e tra l'altro il PM aveva anche addotto il fatto che tu avessi scritto un libro che si chiamava appunto Io non sono come voi, dove in sostanza dice, vabbè, questo è anarchico, scrive delle cose da anarchico nel libro e quindi dobbiamo dare la sorveglianza anche per questa motivazione qua. Appunto volevamo chiederti se c'è una cor qualche correlazione tra il libro vecchio e il libro nuovo e soprattutto cosa ha girato intorno alla sorveglianza e come si è evoluta anche la richiesta di sorveglianza che ti E hanno come non ho fatto. capito come si è evoluta la sorveglianza, non ho capito Sì, cosa mi hai chiesto. la tua richiesta di sorveglianza, come si è Sì. evoluta la tua richiesta di sorveglianza all'oggi? Perdonami. Ok, allora. No, tranquillo, tranquillo. Dunque, il primo aprile dell'anno scorso mi è stato notificato che il 21 dello stesso mese avrei avuto un'udienza in cui sarebbe stata discussa la mia sorveglianza speciale. Negli atti c'erano i miei vari comportamenti di tutta una vita, non si erano fatti scrupoli nel dire che, malgrado le condanne, malgrado questo, malgrado quell'altro, io non mi sia mai redento, non abbia mai smesso di essere anarchico, e quindi, come se essere anarchici, cioè, non rientri nella libertà di questo paese, cioè, non lo so. Vabbè, questo è giusto una piccola polemica. Comunque, appunto, scrivevano che non ero mai redento, che io, avendo più di 50 anni, potrei essere un po' un esempio per altri, col fatto che non abbia mai smesso di credere in certe cose, di fare certe cose. Però, più che altro, allora interessava, perché poi il PM che ha seguito il processo per l'incendio al carcere è la stessa PM che ha chiesto la sorveglianza. Questo perché? Perché sapeva benissimo che al processo di appello per l'incendio al carcere gli era andata bene in primo grado col fatto che il giudice avesse accolto la sua teoria folle che quello era un incendio doloso, però sapeva benissimo che all'appello sarebbe caduta questa cosa, cosa che poi è avvenuta qualche mese fa, quando c'è stato il processo di appello per l'incendio al carcere. È caduta l'accusa di incendio doloso, è rimasta quella di incendio colposo. Quindi cosa faccio questa PM? Ma è una cosa che fanno spesso i PM, quando hanno dei processi deboli, comunque delle accuse deboli, montano su delle inchieste, subito dopo provano anche a metterci le sorveglianze speciali, in modo che se la sorveglianza speciale viene accolta, si presentano al processo d'appello dicendo: vedete, anche il tribunale che ha concesso la sorveglianza speciale ha creduto valida la teoria che questa persona sia colui che volontariamente abbia dato fuoco al carcere. Questo è un po' il giochino che fa, e lo fanno anche con altri, che ne so. Sì, tu mi hai chiesto prima come si era evoluta la sorveglianza. Comunque, la sorveglianza mi è stata data. Avevano chiesto 2 anni, me l'hanno data per 1 anno e mezzo, e quindi io adesso sono in sorveglianza speciale da quasi 7 mesi. Sì, questa roba dell'anno e mezzo è veramente un regalo che ti hanno fatto, nel senso, è una delle prime volte che sento 1 anno e mezzo di sorveglianza. Va bene, comunque Ma io ho niente. sentito anche persone che ce l'hanno da 5 per 5 anni in questa chiesta. Sì, 5 anni sì, massimo sì, però 1 anno e mezzo, proprio quel mezzo anno è fantastico. Sì, è fantastico, sì. E va bene, dai, niente. Allora, guarda, ti ringraziamo e sperando che riusciremo ad organizzare prima o poi una presentazione anche a Milano, Volentieri, molto volentieri, però con la magari voce. con la voce, bravissimo. Era quello che volevo aggiungere. Magari riusciamo a presentare il libro più in là. E ti salutiamo e ora mettiamo Bene. sempre un pezzo di Bankhardcore torinese che so che apprezzi. Mettiamo i declino con stato. Ok, Va ti bene, ringrazio. Allora, un perfetto. abbraccione, a presto, un saluto a tutte e tutti. Dai, Va grazie bene? mille. Ciao, a presto. Ciao Ciao. ciao ciao. Ciao.